la Feltrinelli arriva domani. Quella risposta tipica di quando era viva, di quando è che verrai eletto con me? Tipica di quando è che vai il libro arriva, tutti i libri sono in settimana, non in settimana. Quindi, vabbè, allora, 8 giorni da oggi. Comunque, avete le fotocopie della poesia che vi avevo detto? Sì, avete? Questo per ogni e niente, perché non arriviamo ancora oggi alla poesia, ma ci arriviamo la prossima. Quanto siete? Che è te? Un strano dubbio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lei laggiù in fondo è lì, 18, 19, 20, 21, 22, 22, forse 23, 22, va bene, sì, primo secondo anno. Allora, l'altra volta facevamo un discorso, ovviamente, su un tema però che mi sta molto a cuore, cioè l'identificazione di quanto, prima di tutto, è un discorso anche un preambolo, di quanto è significativo nella bellezza di un'opera d'arte. Allora ci sono varie teorie, per esempio leggevo nelle bellissime e introvabili ora lezioni di letteratura russa di Nabokov, che mi accennavo l'altro giorno, il grande sogno scrittore Nabokov, di cui io vi raccomanderei di leggere oltre che questo supremo libro, che è stato in qualche misura poi un po' distrutto anche dalla pubblicità per la storia dell'amore per la ricchezza, eccetera. Questo è un elemento assolutamente accessorio nella bellezza complessiva del libro, che è una delle cose più grandi mai scritte in letteratura. Però vorrei raccomandarvi, questo invece si trova, perché è più altamente formativa della vostra anima, il dono di Nabokov, il dono del libro scritto in russo e poi mai tradotto poi una volta in inglese, ma insomma tradotto grazie alle virtù infinite di una mia amica che si chiama Serena Vitale, per Adelphi. Lui Nabokov sostiene, poi tra poco vedrete che andiamo al dunque in modo icastico e orbente. Lui da poco sostiene che insomma la scrittura è fatta di parole, quindi le belle parole sono le strutture sinuose della frase, poi sono quello che ci rende grande un'opera d'arte. Beh, parlando naturalmente della letteratura. Ora, Flaubert diceva qualcosa di un pochino diverso, molti di voi lo sapranno, diceva che quello che è bello in un'opera d'arte letteraria, naturalmente, non sono tanto le parole, ma è l'intreccio delle parole. Lui diceva, non sono belle le perle, vi ricordate, forse qualcuno di voi si ricorderà questa frase, no? La collana. Bene, la mia idea è un po' un'altra, e si è approfondita in questi ultimi anni. Io sto lavorando, diciamo così, al concetto di atmosfera. La cosa grande di un'opera letteraria, anche di un'opera musicale, ma insomma io sono letterato, mi occupo di letteratura, è proprio l'atmosfera, è il clima che viene. Vi faccio un esempio, per esempio, c'è un libro bellissimo degli anni 50, prima poco, di uno scrittore inglese che ha rischiato di prendere il Nobel varie volte. Poi però, essendo un cattolico, e avendo scritto anche cose brutte, perché capita anche agli altri scrivere cose brutte, ma qui questo seminario di specialisti non esitiamo per andare anche al di là del seminario, ben sanno quelli che mi conoscono, lei mi conosce un po'. Il libro si intitola Il nocciolo della questione, The Heart of the Matter, il cuore del problema. Ecco, è una storia di un adulterio meravigliosa ambientata in Africa. Naturalmente da un punto di vista drammaticamente cattolico. Questo libro quanto tempo fa l'ho letto? Vi posso dire anche con una certa facilità, l'ho letto quando avevo 15 anni, ho continuato a rivederlo nel corso della vita. Naturalmente poi uno vede dei difetti nei libri, evidentemente, come nelle persone amate, lì per lì non li vede, poi passa il tempo, le persone sono piene di difetti, poi vederle anche uguali, è uguale la stessa cosa, cambia assolutamente niente. Poi magari uno si abitua ai difetti, no? Una cosa di questo libro mi è sempre rimasta straordinariamente impressa, l'atmosfera, è una storia d'amore che avviene da parte di... come? Detto qualcosa? Da parte di un ispettore di polizia, un commissario di polizia, in un paese coloniale, in un caldo permanente, nella pioggia, con un senso di esilio che hanno tutti gli inglesi che si trovano lì, lontani dalla patria, lontani dai loro affetti più cari, lontani dalla civiltà, e lì matura una storia d'amore. Lui aveva un'abitudine, il personaggio più importante, se questo libro vi capita di leggere, lo dico bellissimo, al di là dell'ideologia che uno può non condividere, anzi io personalmente condivido assai poco, ma il libro è meraviglioso, A un certo punto lui racconta il protagonista, cioè ogni giorno, scusate, il protagonista Scopi annota la temperatura. Oggi 34,5, oggi 29,6, piove, insomma tutte queste cose sono degli espedienti straordinari per farci sentire lì nel caldo, nel fango. Per esempio quando lui abbandona l'amante, ecco, quello che ricordava del capanno in cui si vedeva con la giovanissima amante, una persona anziana, insomma, una persona di età, era l'odore del gin rosa. Questo odore del gin rosa però non rimane solo nel libro, ma va al lettore. Il caldo tropicale, le piante tropicali, i negri, come li vengono chiamati, la loro inaffidabilità, i siriani, gli orienti, tutto questo mondo indigeno che ti respinge o ti accoglie e tu sei sballottato tra nemici e amici, tutto questo rimane. Questo vale per questo romanzo che vi ho detto, vale per tutte le opere d'arte. Quindi io volevo esortarvi proprio a cercare di avere questa dimensione. Che cosa ti rimane di un libro? Ti rimane l'atmosfera, cosa mi rimane dei Buddenbrock, dei Thomas Mann, di ben altra natura, evidentemente, uno dei grandi libri dell'umanità, insomma, che cosa ti rimane? Ti rimane l'odore del caffè la mattina, dei grandi pranzi che si facevano, la salsa di scaloni, chiunque ami Thomas Mann sa che cosa voglio dire. Io ho cercato poi di mangiare la salsa di scaloni finché un giorno sono riuscito a mangiarla a Parigi. La salsa di scaloni che mi ha fatto uno strano effetto, che mangiavo esattamente quella salsa, cioè una salsa sciarpa esattamente, e che mangiava Johannes Buddenbrock, eccetera. Queste cose ti accompagnano nel pensiero. L'odore della salsa di scaloni, l'atmosfera al mattino quando la protagonista di Buddenbrock, liberatasi da un fidanzamento importuno, dice sì. Quei fidanzamenti importuni che vessano le vite delle giovani donne, no? E poi misteriosamente, magicamente se ne vanno, si dileguano, e allora rimane come un senso di apertura che si confonde con il senso di apertura tutto intorno, insomma. L'atmosfera è molto importante da guardare in Dio. E perché noi ne parliamo? Perché in realtà direi, o si capisce questo o non si capisce nulla. Tutta è questione di atmosfera, una poesia semplice, cominciamo a dire questo. Tra poesie, relativamente semplice, tra poesie dada, questo è il tema, tra poesie che cercano la distruzione dell'immagine e soprattutto la sconnessione, la non evidenza sintattica, no? Questa poesia di Reverdy, che è di questi anni sostanzialmente, dal 13-14, in avanti fin quando? Non fino a molto, perché poi in realtà sono poesie ripetitive, eccetera, ma diciamo che va il meglio dell'attività di Reverdy copre 15 anni, grosso modo. Poi ha continuato a scrivere, ma il meglio... Bene, queste poesie hanno alcune caratteristiche fascinose. sono relativamente semplici, sono monotone. Questo sembrerebbe non un peso. E forse non lo è. E forse non lo è. Diciamolo qui. Però lui aveva una teoria poetica di grande interesse. Lui diceva, io sono convinto che nella vita e nella scrittura, nell'arte, e fate bene attenzione, bisogna rimanere là dove si è, questa è la sua espressione. Come vuol dire bisogna rimanere là dove si è, no? Cioè uno deve essere se stesso. Proust aveva quella bellissima idea, che vi ho detto molte volte sicuramente, della patria perduta. Ognuno di noi ha una patria perduta e gli artisti, non solo gli artisti, anche noi. E come facciamo a trovare questa patria? Forse non la si trova mai. Forse tutta la vita viviamo spostati rispetto a quelle che sono le nostre esigenze più profonde. Naturalmente nel caso dell'artista il problema assume un rilievo del tutto particolare, perché se lui scrive fuori dalla sua patria, o se non l'ha trovata la sua patria, che è lo stesso, sarà opere che non gli appartengono. Questo problema della appartenenza, questo bellissimo concetto dell'appartenenza dell'opera all'autore, e vorrei dire anche dell'opera al fruitore, se tu non riesci a sentire un'appartenenza, tu lettore, a un'opera, non la cogli. Io ho sempre detto, chi mi conosce, mi segue, che bisogna leggere lentamente, bisogna saturare le parole, quando le cose sono molto belle, cosa bisogna fare in un libro. Però non vi ho mai detto, ne sono convinto, una cosa. Lentamente sì, però bisogna anche fare uno sforzo, e allora qui c'è una specie di contraddizione, per cogliere l'atmosfera del libro. E se io leggo troppo lentamente, quindi una correzione di rotta a quello che vuoi dire, correzione parziale, bisogna leggere pesando le parole, ci mancherebbe altro. Però se tu pesi le parole e non cogli l'atmosfera, torniamo al concetto, non hai capito l'opera. E come fai a sapere se hai colto l'atmosfera? È un fatto sessuale. So che quando parlo di testo tutte le vostre fantasie sono sempre dette, dite, soprattutto esperte. Cioè tu ti accorgi di quando le cose nel testo ci sono o non ci sono, no? Beh, ti accorgi. Io sempre ad usare i miei soliti piccoli esempi un po' scemi, là anziano professore, insomma, se io vedo il barista, io penso sempre al barista. Cosa serve? Se io vedo il barista, io non sento un palo. A volte mi pongo questo problema, dico, ma come mai non sento un palo di fronte al barista? In realtà non sento un palo di fronte a molte altre persone, ben diverse dal barista, e che mi vengono sottoposte da congiunti, oppure da amici, che guarda, donne, giovani. Io rispondo ogni volta imperturbabile con questa frase, ma io non sento un palio. Anche ormai ho codificato questa frase, ma io non sento un palio, per cui la dico sempre, ogni volta che c'è qualcosa che non mi coinvolge. E così anche un libro. Ci sono dei libri che uno legge, lei fa attenzione, segue, in cui tu non senti un palio. Ma perché? Un po' forse perché è colpa tua, perché non sei riuscito a coglierlo, perché tu sei anche una persona, no? O vuoi stare insieme, devi cogliere l'atmosfera della persona, rendo l'idea, devi fare uno sforzo, non puoi parcellizzare la persona, gli occhi, la bocca, no, devi cogliere l'atmosfera. Quando in un libro tu cominci a cogliere l'atmosfera, allora ne sei esattamente come nei fatti erotici, impressionante. Un giovane mio assistente, che voi conoscete, un ragazzo alto, bello, che non parla male, non è vero, perché poi col tempo stimolato fortunatamente parla e dice cose bellissime, è un grandissimo lettore, quello che sta nella mia cattedra che vede ben presente, aveva cominciato a leggere per l'appunto in mia indicazione, che non mancava, era il suo pur vasto panorama di lettura, la montagna incantata, libro cardine della vita, e mi aveva detto una cosa non sbagliata affatto, che era spassoso, era vero. Però io gli ho detto, guardi che questa è una parola inadeguata, perché fra un po' lei dirà qualcosa di diverso. A un certo momento lui mi ha telefonato e mi ha detto, professore, devo dire che sto per dire qualcosa di diverso sulla montagna incantata. E lei mi aveva ritenuto scemo quando ho detto che era spassoso, no? Ho ritenuto proprio inadeguato. Quando ho capito che aveva agganciato l'atmosfera, allora sapevo che il libro gli era vedere. Ma un quadro era questa cosa. Perché i musei da vedere per volta, i quadri, eccetera, insomma, no? Quest'estate ero in Russia. E all'Ermitage c'era una guida che faceva vedere i quadri in un modo scandaloso. Secondo voi, non so più tutto, qui la parlo in italiano. Meraviglioso. No, come gli slavi, sapete, che parlano, quando sono scemi parlano 17 lingue, quando sono molto bravi sono 38, 39. Però hanno anche un'ottusità a volte profonda. Io dico, ma lei non può passare a un certo punto. Lei non può passare da un quadro legato al genere a un altro genere, eccetera, in questo modo. Lei impedisce di cogliere l'atmosfera del quadro. Lei agisce contro il quadro e anche contro di me, che mi fa un torto dal punto di vista economico. Io ho dato il biglietto per avere un certo servizio. Qui c'è una discrasia tra servizio e effettuato. Lei è nata un po' colpita da questo discorso. Però è così che si deve vedere un museo, un quadro, no? Tu devi vedere un quadro e devi star lì finché, naturalmente con informazioni adeguate, ma non è che lo Spirito Santo ti può illuminare, finché hai poi ci sono delle poesie, per esempio, o una collega dell'università, professoressa, eccetera, che ha naturalmente, che ci mancherebbe altro, una somma stima nei miei confronti. Molto lungante, corteggiante, carina, e naturalmente consento tutto questo da e mi manda poesie. Sapete che mandare poesie a un letterato è una delle disgrazie più grandi. Io ho cercato timidamente di dire la prima volta, fare una bella poesia è molto più difficile che vincere al Super Enalotto, in cui ci sono 643.000 probabilità di fare una cosa più buona. Queste poesie sono abbastanza brutta, però tra le poesie che lei mi manda semplicemente così per questo piacere di ostentazione narcisistica che spesso hanno i poeti in erba, che sono tutti poeti in erba, perché una poesia bella la trova. Io sento delle poesie alla radio, per esempio, che vengono dette pubblicate dai Naudi, grossi editori, insomma, il pomeriggio, quando torno dallo scolastico. E il mio commento è orrende su una orrende. Naturalmente è una collega, poi anche carina, quindi sempre speranza di poter ampliare i propri orizzonti di esistenza, e non puoi dire che è una poesia. Però un giorno sono andata lì una moto. Perché una moto? Per delle belle parole. Guardate, questo è il gesto. Questo è il gesto. Per l'atmosfera, per il clima che c'è. L'ho letto e dico, ma è possibile? Ma mi sarò sbagliato. No, c'era. Quindi, in fondo poi, diversamente da quello che pensava la verità, diceva, qualunque effetto dell'opera d'arte, dell'opera che ha una finalità artistica, che non sia voluto, è un effetto da trascurare. Bene, ma lei si sbagliava. Si sbagliava, perché a volte capita di cogliere, di riuscire a esprimersi in una certa particolare atmosfera. E l'altra volta questi preamboli sono abbastanza importanti, anche se naturalmente ci fanno perdere un po' di tempo rispetto a quello che dobbiamo dire, ma vedremo poi recuperare il tempo possibile. L'altra volta, ancora su questo concetto di atmosfera, che ritengo decisivo, dicevamo per esempio l'atmosfera di Baudelaire. Qual è? Beh, insomma, è questa solennità da sacerdote. Baudelaire sembra un sacerdote, sta facendo messa, sostanzialmente, no? Cioè, tu non ti permetti di fronte a uno che fa messa, ma per rispetto alla sua religione, insomma, non ti permette di dire affronto. A molti poeti puoi dirlo invece, a Brambogli lo puoi dire, a Verlaine puoi dire cretino, all'altro no. Perché? Perché è un sacerdote. La solennità di Baudelaire, unita a questa caratteristica, impeccabilità della forma, è il tratto di Baudelaire, è la sua grandezza. Capirlo vuol dire che poi tutte le poesie di Baudelaire che leggi le riesce a inquadrare, no? Così un film è la stessa cosa. Anche un film, parlo di film naturalmente di qualità, spesso emergono non per certi dettagli che possono anche infastidire, ma se alla fine viene fuori un'atmosfera. Naturalmente un mediocre, un autore mediocre non sa far venire fuori un'atmosfera, no? Ma pensate invece quanto un grande sa far venire fuori un'atmosfera. A caso, un qualunque, non so, Joyce, l'atmosfera di Joyce. Ma pensate, non so, uno che avete letto tutti a scuola, insomma, Manzoni. Questo mondo così splendidamente etichettato nel bene, nel male, nei concetti di redenzione, di colpa, con questa grande, possente scrittura che tutto dirige con lui come supremo von Karajan, direttore d'orchestra, di sopra, insomma, no? E questa è la cos'era, cupo, libertino nell'anima, pessimista e giansenista nei costumi. È un bel quadro. Il caso di Verdini ci porta a considerare la sua atmosfera come compromessa, dicevamo l'altra volta, fortemente con la pittura. Nel senso, molto semplice, che le poesie di Verdi sono quadri e quindi notiamo luci, silenzi, scorci, oggetti, molti oggetti inanimati, molte nature morte, molti tagli prospettici, no, non tagli prospettici, non è esatto, molta geometria. Molta geometria. Una poesia di Verdi è caratterizzata da molta geometria. Soprattutto da silenzi. I silenzi vengono costruiti in vari modi, con evocazioni, connotazioni, espressioni delle parole, ma soprattutto da spazi tipografici o da questo piccolo sistema che dovete imparare bene. C'è un verso, poi c'è un altro verso sotto, stampato allo stesso modo, e poi c'è un terzo verso, mettiamo che interviene a sera in alta la stessa, che però è asimmetrico. Allora questa asimmetria violenta ci fa sentire, avremo molto modo di vedere eventi di questo genere, ci fa sentire una pausa, uno spazio. Il silenzio è molto significativo. Vorrei dirvi subito perché il silenzio, a parte altre considerazioni, perché questa poesia che è fatta di oggettualità e non soggettualità, nel senso che se ci sono delle persone, queste persone sono persone che stanno lì per essere vedute, quindi sono viste come oggetti, come personaggi di un quadro, e la materia, gli oggetti, la materia si identificano per questo silenzio che hanno intorno. Guardate un secondo. Allora, vediamo che in questo momento noi ci estraniamo da questa Auletta, uscissimo, no, sto inventando, rimanessimo immobili e uscissimo. Naturalmente noi siamo tutti vivi e il caso di Dio lo palpitato, è difficile che uno sia totalmente immobile, questa ragazza per esempio. Lei come si chiama? Manuela. Manuela, ricordo io. Manuela in questo momento si sta grattando la coscia, forse. No? Sta facendo qualcosa di strano, con le mani, magari è difficile, e noi stiamo fermi, lei si sta muovendo, eccetera. Allora immaginiamo che facciamo tutti qua le belle statue, oppure che usciamo. Che cosa rimane di questa stanza? In questa stanza, Mallarmé direbbe, rimane il segno di una presenza che non c'è più. Una bella idea, splendida. Ma con Revertini siamo molto più, senza inventarci cose poetiche così ragguardevoli, possiamo dire semplicemente rimangono qui i nostri fogli. Va bene? Vi prego di notare questi due oggetti che sono qui messi sul tavolo. Cosa sono? Voglio dire, non sono occhiali. Lei come potrà vedere, si tratta di due occhiali di tipi diversi, vede? Questi sono occhiali che hanno una pur leggerissima miopia. Se vuole gliela dico anche, 0,75, 3 là. Questi sono occhiali da presbite. Occhiali da presbite, deve sapere, oltre una certa età, servono per leggere da vicino. Ti guarda questi occhiali. Provi a immaginare che questi occhiali si muovono da soli. Non riesce. Se io fossi morto, naturalmente con Deus aperta, evidentemente, e poi comunque sapete, lo raggiungo sempre parlando di studenti, prima la vostra morte, poi la mia, no, alcun dubbio. Questi occhiali verranno qui. Una delle caratteristiche delle case in cui qualcuno è morto è che si mette via la palla. Si buttano via le cose, eccetera, ma la presenza del morto nella casa continua a imperversare. Gli abiti appesi negli armadi, no? Aprite l'armadio e vedete questi abiti, tutti immobili. Lì c'è una sorta di tentativo di vita perché gli abiti profumano del corpo della persona a volte, eh? E quindi, ma se andate a vedere la scrivania della persona, mettiamo che la persona fosse uno che facesse un lavoro intellettuale, lì vedete degli occhiali, vedete una penna, una gomma, no? E pensate per esempio che quella gomma era stata messa in quella posizione l'ultima volta la persona che ora è defunta. Quindi la materia, il grande mondo della materia, ha una sua immobilità che richiama l'idea del silenzio. Allora tanto silenzio nella poesia di Reverdy serve in prima istanza, poi anche per altri motivi, proprio per darci l'idea di questo mondo fatto di materia. Chiaro il concetto? Bene, questa poesia è impregnata di pittura, sono poesie quadri. Va bene. Allora, noi ci siamo fatti l'altra volta, abbiamo cominciato questo discorso, stiamo riprendendo, come vedete, il discorso dell'altra volta. Dico, ma questa idea della scrittura pittura è un'idea nuova, no? Perché noi abbiamo avuto nel tempo più recente, dicevamo l'altra volta, rispetto a Reverdy, noi abbiamo avuto degli esempi di contaminazione, scrittura, pittura. Uno dei più ragguardevoli, dicevamo l'altra volta, è il poemetto più famoso di Mallarmé, che è il Faune. Nelle sue tre versioni, in particolare la Tragedia in Faune, la più significativa. Siamo nel 76, e la storia che raccontavo l'altra volta, lo ricordo, del fauno che crede di avere posseduto due ninfe, no? L'altra volta non mi dicevo c'è qualcosa di osceno, la cosa del possedere due ninfe, a parte il fatto di impossibile, perché uno ha un membro solo, non ne ha due, quindi possedere, no? Già fatto, effettivamente. Ma possedere due ninfe, cerchiamo di capire cosa vuol dire. È il senso della ricchezza. Capite? Mi segue? Cioè, passando ad un esempio gastronomico, un esempio sessuale, uno gastronomo. Tu hai due donne. non è una rete 1, volete, è una rottura di scatola della rete 2, altrimenti non tutto. Però ti dà anche un'idea di, come dire, di efflorescenza della tua esistenza, no? Come se io avevo una ragazza, mi hanno detto, che aveva 5 fidanzati. Nessuno sapeva nulla, era un esempio, bella ragazza, mi ricordo, ho tanti anni fa. La sua idea, naturalmente la metto bene adesso, perché era molto più lunga la sua idea era quella di un narciso sfrenato, la sua idea era così, aveva un senso di ricchezza nella vita, un solo fidanzato, a cui telefonare, senza paura. Lo stesso bar, incontrarsi, la stessa pizza, beh, poi non è per gusto, e quindi vedere che la ragazza prende per Dio sempre la pizza margherita, sono 5 ragazze diverse, no? Solo c'è una possibilità, poco, stessa pizza, e una prenda, non so, la pizza al salino, la vita di Amsterdam, e facendo un esempio appunto gastronomico, vedete poi che la gastronomia è sempre a voi presente nelle nostre fantasie più fervide, a un bambino tu dai una fetta di torta, se la torta è buona, è molto probabile che il bambino voglia una seconda fetta di torta. Io ricordo l'esempio della mia infanzia, che tra i miei intimi è diventato storico, di cui uno l'ha provato a scrivere, uno è il Piperno, bastardo, non posso mai dimenticare fatto, io odio i ricchi, quindi glielo dico ogni giorno. La storia è quella del gelato. Una volta ero a Torino con mia madre, io sono di origine piemontese, non sarda, non siciliana, non vuoi cucinare, e avevo un gelato, era anche un gelato uguale al mio, una bellissima coppa di gelato, identico. E allora io gli dissi a un certo momento, questo è uno dei episodi cruciali della mia esistenza, e uno degli inizi dell'angoscia esistenziale che poi ho avuto. Io avevo appena cominciato il gelato, mia madre aveva appena cominciato, e gli dissi, ma mi dai il tuo gelato? E mia madre mi rispose, ma perché devo darti il mio gelato? Tu hai il tuo, io ho il mio, no? E quindi per motivi pedagogici non mi diede il suo gelato. Tutto torto, mia madre è morta da tanti anni, è andata, sono stata di 720 anni da allora, questo torto non solo mi è rimasto, ma ho eterrizzato del gelato che non mi fu dato, ma il gelato che non ti viene dato è molto importante. Una volta, proprio una persona, un analista di grande qualità, l'avevo raccontato questo piccolo aneddoto, ecco, se non vi chiedi ve lo racconto, era una persona che aveva avuto una vita molto difficile, si sposò tardi, era tutta la famiglia della moglie fu sterminata nei campi di concentramento. Aveva una figlia meravigliosa, nel mondo. Un giorno gli chiese, ma lei come ha fatto a educare così bene sua figlia? Io ero un ragazzo, avevo 30 anni. E lui dice, gli ho dato il senso della fetta di torta in più. Dico, si spiega. Una volta, disse, quando la bambina aveva 6-7 anni, voleva un paio di scarpe. E allora l'ho portata a un negozio di scarpe. E dissi alla bambina, detto, quale scarpe vuoi? E voi potete immaginare qual era la risposta della bambina di fronte alle scarpe di un negozio di scarpe della bambina. Quelli. Ma un istante dopo puntò il dito da un'altra parte, no, voglio anche quella, ma voglio anche quella. Credi io, disse io. E che cosa è successo? No, io pensavo invece nella pedagogica educazione di mia madre, se chiedevo un paio di scarpe, me le dava una tagliata a metà. Guardava mio fratello. A questi livelli qua. Ma se chiedeva sei scarpe, sei paio. E allora io le ho date tutte, le ho comprate tutte. Per un modesto stipendio diventa assolutamente insostenibile una pedagogia di questo genere, no? Comprati sei paesi di scarpe. Ah, disse lui, sei una persona tutt'altro che innovatrice e progressista, ma aveva una grande intelligenza. Dice, ma cosa vuol dire dare a un bambino 6 paia di scarpette? Vuol dire dargli un senso di pienezza. Perché uno, diceva lui, e non è così, perché uno nella vita tradisce i propri aspetti, cerca le 5 donne, i 5 uomini, eccetera? Perché uno è nutrito dal punto di vista psicologico, perché se avesse avuto di più di affetto, di calore, no? A volte questo affetto, questo calore non ce l'abbiamo. Avete visto questa scoperta che è stata perfezionata in questi giorni? Quella della ossitocitina. L'avete vista? In questi giorni tu è venuta fuori questa notizia, una cosa vecchia, mai stata scienziata. Cioè, se tu hai un figlio molto di più, questo non dipende dalla grandezza della tua anima, ma dipende dal fatto che hai un ormone. È questa ossitocitina che fa sì che tu sbaciucchi il bambino, lo carezzi, eccetera. Stessa cosa vale per alcuni con gli animali. Allora, se il bambino è sbaciucchiato, ma non solo sbaciucchiato, se il bambino è oggetto di un fatto fisico, sta meglio, sta meglio. Quindi chi ha meno ormone di questo ormone, è scientifica la cosa, dà meno fette di tocco. Evidentemente mia madre doveva avere un tasso di ossitocitina perché non mi aveva dato quel gelato, cosa che io poi da adulto, finché poi non è mancata, io le ho rimproverato quel gelato. Lei diceva, era uguale, non volevo darti, bisogna educare un bambino, educare, torniamo a non utopia. Ma le due, no, questo perché dicevo, per le due ninfe, quindi malarmè vuol dire questa ricchezza. Comunque il Paolo alla fine conclude dicendo che non importa che le avesse possedute o no, parla un po' cretino, diciamo la verità, e che quello che era importante è che potesse riprodurre nell'opera d'arte. Lei non prende nessuna cura, mai, non si può. Perché è importante questo processo? Perché ci fa vedere un esempio di contaminazione sulla pittura straordinario. Questo è un poemetto e questo è un quadro. E è un poemetto ispirato seccamente e puntualmente alla tecnica dei quadri che allora si faceva. Quali quadri? Quali che tutti conoscete, quadri impressionanti. Mallarmé aveva scritto a un amico, ma pensate alle fanciulle, nel 64, ascoltate le date che sono molto interessanti, perché io amo molto la filologia, aveva scritto questo principio che doveva essere un principio della scrittura. Peindre non la chose, ma l'effetto che il produit. Dipingere non la cosa, ma l'effetto che produce. Siamo nel 64, lettera a Henri Casalis. La cosa interessante è che, diciamo così, l'impressionismo non è ancora nato. Sto un po' esagerando, però mica troppo, perché se voi andate a vedere un qualunque manuale di storia dell'arte, vi diranno che l'impressionismo si manifesta della sua richiesta tra il 1867 e l'80. Vi diranno anche che il primo quadro ritenuto impressionista è anteriore, famosissimo, e cioè il quadro di famiglia di Manet, no? Che è del 63, la rappresentazione della famiglia. Però voi vedete che, senza stare a dire chi è prima e chi è dopo, siamo nello stesso clima culturale, capite? Anno più, anno meno, dicono Manet, gli impressionisti che stanno nascendo, e Mallarmé, dicono la stessa cosa. Bisogna superare il realismo. E bisogna quindi non più dipingere il fiore, ma l'effetto che ti produce il fiore. Ricordatevi queste parole, tendere non lasciamo il fiore. E questo perché? Perché voi capite che per alcune cose che possiamo dire in questo momento, voi capite che se io dipingo l'effetto potrà essere uno su di me. Sto ragionando in questo momento con voi a braccio, ragionando ad alta voce. Uno su di te, uno sa che, certo, l'effetto può avere qualcosa, c'è qualcosa in comune, no? Se io vedo un grande film, alcune cose essenziali le noterò io e le noti tu. Però è altresì vero che se tu vedi vari spettatori dopo un grande film, uno dice un certo aspetto della cosa, un altro, no? Quindi voi capite che dipingere l'effetto che si produce vuol dire ampliare enormemente la capacità semantica dell'opera d'arte. Prima considerazione. Seconda considerazione. Se io dipingo una cosa, la cosa è quella. Se io dipingo il fiore è quello. Ma l'effetto non soltanto può variare in quello che sento io, quello che senti tu, quello che sente lui, eccetera, eccetera. Ma è qualcosa di meno difficilmente circoscrivibile e descrivibile. Quindi abbiamo anche in questo senso un raddoppiamento semantico, un ampliamento semantico. Vi è chiaro questo concetto, eh? Sia perché l'effetto può cambiare, sia perché l'effetto in se stesso è qualcosa di sfumato. Bene, torniamo un secondo all'impressionismo. Ho dimenticato di dirvi che il quadro della famiglia riunita lì è il famosissimo, quello del 63, del Déjeuner. Allora, cosa volevano gli impressionisti? Gli impressionisti volevano dipingere l'effetto che si produce, quindi esattamente quello che fanno da noi qui, e per questo si avvalevano dell'immissione degli oggetti, oppure della scelta degli oggetti, dell'immissione degli oggetti en plein air, all'aria aperta. Perché all'aria aperta? Perché all'aria aperta gli oggetti sono soggetti a variazioni di luci. A un certo momento la pittura europea, mi viene in mente in questo momento pittori inglesi, ma Constantiniana, era un po' ossessionato da questo fatto. Non solo dagli effetti che producono le cose, ma dal fatto che se cambia la luce nel corso della giornata, se cambia, la luce cambia, c'è una nuvola, non c'è più la nuvola, eccetera. Ci sono le ore che si spostano, evidentemente, no? C'è una luce delle 9 del mattino, una luce delle 11, eccetera. Tutto questo fa sì che l'artista deve andare in cerca di un rapporto sempre più preciso dell'oggetto con la luce. Cioè, un oggetto dipinto al di fuori della luce è un nonsenso, perché comunque sia, l'oggetto è investito dalla luce. Un libro, un qualcosa, qui ha una certa luce, se noi qui avessimo una macchina fotografica, voi sapete tutti sicuramente fotografare un esposimetro, noi vedremmo che qui per esempio per fare una fotografia decente ci vuole probabilmente come tempi di esposizione ci vorrà un trentesimo, da un trentesimo a un sessantesimo, una cosa di questo via con diaframma 5-6 probabilmente. Se noi ci spostiamo solo lì, vediamo che il diaframma deve essere almeno a 8 e i tempi diventano 1 su 125, no? Quindi questo rapporto con la luce è fondamentale. All'interno di questo rapporto con la luce bisogna vedere con attenzione e come la cosa viene percepita. Non esistono le cose in sé, secondo l'indicazione. Esistono le cose per come sono percepite dalla rete. Quindi, faccio sempre l'esempio del Prato, che è il più stringente, noi vediamo in Renoir, che è stato uno dei grandi impressionisti, un Prato che è giallo. perché il prato è giallo? Senza che vicino Margherita. No, no, è un prato verde, però lì è giallo. Perché? Perché la luce del sole lo fa apparire giallo. E allora, se lo fa apparire giallo, bisogna farlo giallo. Troviamoci qui. Thank you.